Diogene, Diogene filosofo cinico, è rimasto famoso perché si dice che andasse in giro con il lanternino e a chi gli chiedeva cosa stesse facendo, rispondeva: cerco l'uomo. Poi deve essere anche famoso per il fatto di andare a dormire in una botte. Vabbè, gran bel personaggio comunque. Io amo ricordarlo mentre sereno come una Pasqua si masturba nella pubblica piazza esclamando, magari stropicciando anche il ventre, non avessi più fame. La sua vita se la ricorda Diogene Laerzio, 600 o 700 anni dopo, con quella tipica dovizia di particolari che la rendono più che oscura assolutamente impenetrabile. Uno dei brani per me più ardui concerne il criterio con cui Diogene si faceva un'opinione positiva delle altre persone. Dice il suo quasi omonimo Diogene Laerzio che Diogene il cinico lodava quelli che stavano per sposare e non sposavano, quelli che stavano per intraprendere un viaggio marittimo e vi rinunciavano, quelli che stavano per dedicarsi alla vita politica e non vi si dedicavano, quelli che volevano crearsi una famiglia e non se la creavano, e quelli che si accingevano a vivere insieme con i potenti e poi se ne astenevano. Al primo sguardo sembrerebbe l'immotivata confutazione dell'ignavia dantesca, no? Una sorta di elogio dell'imbranato. Sono tornato alla cosa in seguito alla lettura di un libro di cui abbiamo già parlato qualche settimana sono il caso Domato dell'epistemologo Jan Hacking. Sembra allora che, secondo Hacking, sembra che James Clerk Maxwell, il fisico e matematico scozzese cui si deve tra l'altro il trattato di elettricità e magnetismo e una teoria dei gas che porta ad una legge sulla distribuzione della velocità che è stata si tramanda tra l'altro proprio col nome di Maxwell, sembra allora che questo Maxwell sia rimasto particolarmente affascinato ad un certo punto della sua vita dalle soluzioni singolari. Una teoria proposta da due matematici francesi di nome Saint-Venant e Boussinesq. Cos'erano queste soluzioni singolari? In pratica direi un ghiotto anticipo della teoria delle catastrofi e delle strutture caotiche. Si basavano, per dirla con Hacking, su equazioni con punti di singolarità A, tali che per valori arbitrariamente vicini ma minori di A si ottenevano soluzioni drammaticamente diverse da quelle ottenute per valori arbitrariamente vicini ma maggiori di A. Ovviamente detta così e confinata alle leggi matematiche, la questione era poco promettente. Se non per i matematici, ma estendendone indebitamente l'influenza, sembrava che la cosa potesse perfino giustificare il libero arbitrio in un mondo che pur doveva risultare strettamente meccanicistico. Ecco cosa affascinava Maxwell. La nostra vita è mera routine, una routine preordinata, ma ogni tanto ecco che ci troviamo di fronte al punto di singolarità in cui, scegliendo fra due soluzioni che stanno arbitrariamente vicine l'una all'altra, finiamo con l'ottenere effetti radicalmente diversi. Il libero arbitrio avrebbe operato grazie agli interstizi infinitesimali delle soluzioni singolari. Sono deliri da fisici neppur soltanto ottocenteschi, vabbè. Maxwell modellava la vita sul comportamento dell'addetto agli scambi ferroviari nell'Inghilterra del suo tempo, no? Non faceva niente tutto il giorno, ma al momento opportuno questo addetto dirigeva il treno su binari divergenti. Hacking, molto spiritosamente, frugando tuttavia nella vita privata del personaggio, suggerisce che l'idea a Maxwell deve essere piaciuta parecchio, anche perché lui fu a lungo ossessionato da una scelta che non sapeva né se compiere né tantomeno come compiere, non sapeva fra due donne quale sposare. Venendo a conoscenza di tutto ciò, comunque, ecco, mi è apparsa subito chiara la saggezza del cinico Diogene. Questa storia della nostra vita, punteggiata da curiosi momenti di discontinuità, non doveva proprio andargli giù. Ma come, presumibilmente si diceva, ma come? Non sceglieremmo quasi mai e ogni tanto sì? Ma cos'è questa porcata del libero arbitrio? Se è una banale frottola e al contempo un diabolico marchingegno per consolare gli afflitti e far funzionare alla belle meglio la vita sociale, e se a tutti fa comodo, non è un buon motivo perché mi ci adegui anch'io. Pofferbacco, una cosa è libera o determinata a seconda di come me la vedo io. Se faccio certe operazioni mentali è così, se ne faccio altre è cos'ha. L'uomo che sceglie, l'uomo che decide, l'uomo che è responsabile di sé, l'uomo padrone, vale tanto quanto quello che non sceglie, non decide, subisce ed è irresponsabile, privo di un potere assoluto su di un sé, che è mera finzione. Anzi, quello che vale davvero è quello che non la conta su, perché sa che comunque la metta e qualunque cosa dica, è storia del dopo. È una pezza giustificativa, falsificata più o meno abilmente. In una graffiante pagina di All'ombra delle fanciulle in fiore, Marcel Proust ricorda quei turisti che si esaltano per la bellezza complessiva di un viaggio nel corso del quale, giorno per giorno, non hanno provato che noia. A dimostrazione ulteriore del fatto che le singolarità, in quanto singolarità, ce le facciamo noi, quando e come ci pare. But when I hear the bells of man